bisogna fare un conto. Qua bisogna fare un conto. Sei conto? Il palo è pronto. E se accetto, è mio dovere di portargli le candeliere. A Taddeo che vivi è questo, a Taddeo che vivi è questo. Ma quel palo, ma quel palo, Taddeo, che ho da far, che ho da far, che Cai vacanzinio io presto, non ti voglio disgustar. Cai malcar, signor io resto, non mi voglio disgustar, no. Cai malcar, signor io resto, cai malcar, signor io resto, non mi voglio disgustar, non mi voglio disgustar. Thank you.

Non si può, di volermi creare solo scendo? Capataci, che mai scendo? La ringrazio, son contento, son contento, son contento. Ma di grazia, capataci. Che vuol poi significar? Accolata coloro che mai non sanno disgustarsi, disgustarsi col ben stesso. Mangiare, e per dormire. vestiti da pappataci ed altri qui a suo tempo verranno sopra il vascello. Il gioco più bello non si può far, ma ecco la perbacco se con gli schiavi ancora. Nero sicuro quanto è brava tu stai, con due parole agli sciocchi fa fare quello che vuole. Thank you.

歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。 I have a dream， 我有个梦，能够没有任何风险的发财致富。 可是股市像坐过山车，投资黄金也跌跌涨涨。咦，旺铺招租，稳赚租金收益，难道我的梦想要实现了？ 醒醒了，不要轻信稳定收益的保证。新广告法颁布实施，招商投资广告应当对可能存在的风险做出合理提示，不能做保证性承诺。 哎，这边的朋友你们好吗？ 哇，好帅呀。 哎，那边的朋友看这里。 你也可以在各种广告中看到我，我代言饮料，代言家电，代言汽车，我还能代言女性卫生巾，因为我是大家的男神。 新广告法颁布实施，广告代言人不能给没有用过的产品做推荐证明。 培训班 仅需1980元就能拿到国家承认大学学士学位哦。 看这里看这里，780元导游证包过。 哎呀，别忘了我，100%就业率哦。 啊，该相信谁啊？ 新广告法颁布实施，任何教育培训广告都不能对教育培训效果做出保证性承诺。 快乐假期现在出发吧。 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 安全带一如家人的拥抱，是牵绊，是约束，更是温暖。 北京人民广播电台提醒您，开车系好安全带，安全出游由家人的第一个拥抱开始。 我喜欢旅游，喜欢拿着单反到处拍照，拍美丽的风景，拍家人的笑脸。我会变魔术，女儿说我总能变出一个个袋子，把她旅游时吃的零食果皮统统装下。我还是个篮球运动员，总能把用完的矿泉水瓶准确地投入垃圾箱。你问我是谁？我只是个普通的游客。 每一位游客都是文明的使者，文明出游从你我做起。 真正的女神不一定长发披肩，也可以潇洒干练。 真正的女神不一定全身名牌，也可以一身戎装。 真正的女神不一定来自秀场，也可以走进军营。 来当兵吧，在军营里遇见最美的自己。 北京市热血新兵招募季现已全面展开，凡是驻京普通高校在校生、应届毕业生和具有北京市